Buongiorno. Ci incamminiamo. Dobbiamo aspettare qualcuno. O ci siete tutti? No, vabbè, dai. Cominciamo a andare. Cominciamo piano piano. Se qualcuno arriva un po' in ritardo, ci raggiunge, perché tanto noi partiamo piano e lui, anche se è più lontano, piano piano arriva e ci dà la mano. No, perché mi piace essere chiaro. Ah, cazzo. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Se volete mandare le vostre dediche, il numero di SMS è 333-64-67-662. Sono Beatnik o Beatnik. Perché non metti la canzone che meglio esprime il cammino? A partire dal titolo stesso. Cammino. Sono legato, frastornato da una storia che non ha più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato. Il sangue è un valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Sono il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, e come un soldato. Music make me feel complete. Complete make me feel complete. Cristina from Denmark, dalla Danimarca. È forte Cristina. Caro Gigi, ho portato la macchina dal carrozziere e mi ha rubato l'amplificatore di 500 euro. Ora mi tocca sentire la tua musica senza il basso. Aiuto, per favore. E adesso li devi, e adesso, cioè, secondo me, no? Dovresti portare anche l'altro amplificatore dal carrozziere, perché sennò anche lui sente male la musica, perché con un amplificatore solo lui può ascoltare solo i bassi e quindi la sente male anche lui. Quindi io farei qualcosa per lui. Questo è il mio consiglio. Non è buono, non va bene. Mio fratello ti ama da morire, ma io non ti sopporto. Sei un incubo. E però è bello ricevere questi messaggi qui. Ma con tutte queste camminate che fai ogni giorno, quanti chili hai perso? Nanna 91. A nanna. E io non ho perso chili perché cammino da fermo. È una camminata, capito? Volevo ascoltare Lo sbaglio e dedicarla alla mia migliore amica Eli e dirle che le voglio tanto bene. Baci. Vuoi mettere Lo sbaglio? Ciao, Alberto. Gigi, vorrei dedicare Lo sbaglio a Paola, che tra poco sarà mia moglie. Ti amo, piccola. Sì, ovviamente Lo sbaglio, suppongo tu glielo voglia dedicare come riflessione, perché se la stai per sposare e gli dedichi Lo sbaglio e capisci che, no, giustamente io mi rendo conto, perché Lo sbaglio poco ha a che fare con il titolo, cioè nel senso che poi è una riflessione che, si è capito? No, a me piace essere chiaro. Sono Simona, dedicami una canzone che mi tiri su in questo momento difficile in cui mi ha lasciato il mio vero amore. Ah, vero amore, cioè ti ha lasciato ed è il tuo vero amore. E quindi qua già è contrastano un po' queste due cose. Beh, per tirarti su, io ti farei ascoltare Lo sbaglio, ma non tanto per dirti hai sbagliato, ma giusto così è una riflessione, no? Come già dicevo prima, è uno spunto per, l'importante è capirsi. Ciao Gigi, sono Nicola. Voglio dedicare una canzone a tutti i miei amici che sono in carcere ed in comunità. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa, qual è la soglia, per poter dire, è un fantaglio. Chi lo sa, se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Questo groviglio. Massimo di Massafra. Saluto mia moglie ed un mio amico di Roma che sicuramente ti starà ascoltando. Si chiama Orlando. E ciao. Non so più dove qual è il mio meglio, se non si scioglie. Tutta apparenza, solo una bagna. Non c'è canzone senza lo sbaglio. Mi fai sentire ginnastica mentale. Nick. Mi puoi far sentire ginnastica mentale? Paolo Di Foggia. Eccola. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti fatico ti ginnastica mentale. Il mondo è fatto a scale. C'è chi cade e si fa male. Gifu. Sì, abbiamo anche dei ragazzi con dei problemi che ci scrivono. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Sono Stefania dalla Sicilia. Voglio dire a Giuseppe che lo amo da tantissimo tempo. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Io vivo quando ti guardo negli occhi. Gigi, scegli tu una canzone per il mio Luca, per ringraziarlo di tutto l'amore, di tutti i sorrisi, di tutti i sacrifici che mi ha dedicato. Una canzone per noi, nella speranza che un giorno potremmo vivere la nostra favola accorciando le distanze. Silvia. Sono Rosa e dedico al mio amore Federico. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Oggi si conosce il valore di tutto e di niente, ma tu, Fede, per me vali più di ogni altra cosa al mondo. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo e quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore, forse vuol dire sentirsi vivi, forse vuol capirlo. Forse vuol capirlo. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Voglio difendermi da tutto questo, tutto questo, tutto questo, tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesci ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Per me, amore, vuol dire aver incontrato te. Pronto il cammino di Gigi dal Bottino. Bravo. Gigi dal Bottino, mica nocciolino. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente. 333-64-67-662 333-64-67-662 333-64-67-662 333-64-67-662 Ci fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Riprendiamo il nostro cammino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica. Musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Musica. Musica. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sono Totò da Sant'Antonino. Ogni giorno percorro con te il tuo cammino. Fammi ascoltare Passo Felino. Modo lo suono e faccio un inchino. We'll be right back. musica la. Ma perché non riesco a capire quello che veramente voglio? Tengo una persona più degli altri, ma non riesco a capire se la amo. Cosa faccio? Dopo ti chiedo scusa per l'incertezza. Inghia dopo. La frequenza è codesta, è la musica pesta. M2O pesta. È la musica pesta. È la musica pesta. È la musica pesta. È la musica pesta. È la musica pesta. È la musica pesta. È la musica pesta. Gigi, sono innamorato di Adele. Le potresti dedicare Don't Cry Girl? Che dici? No, Don't Cry Tonight. Grazie. Saluti alla family. Ciao. Medesimo d'Agostino. Sono Silvia. Ti prego, mi metti parlando? Mi fa impazzire. La dedico a Linda. Ascoltare I'm Not Ashamed di Naum. Aiuto. È difficile da leggere. Pampo te. Però ho capito, è molto bella, è bella bella. Ogni volta che ascolto le sue note meravigliose mi vengono i brividi, e anche me. Just missing the beat. Caro Gigi, sono Nils. Vorrei ascoltare Ballatella, se possibile. E certo. E dedico a tutte le persone che ballano in discoteca. Ah no, e dedico... Eh sì, perché lui è tedesco, eh. Cioè io ho letto bene, solo che è tedesco e ha scritto, è strano. Però ho capito. Grazie. E saluti da Berlino. E io sono Gigi D'Agostino. Ciao. Potresti dedicare al mio amico Flavio Drifting Sideways. È un po' vecchia, ma esce pazzo se l'ascolta. E certo, adesso allora io la suono e tu tieni a bada il tuo amico. Well, I'm floating forever and the day, drifting sideways. I'm dying here like a wave. Set my eyes on you, girl. Drive deep into your world. Watch my life go down the drain. Ma con tutte queste camminate che fai ogni giorno, quanti chili hai perso? Sì, vabbè. Nanna 91. A nanna. Oh. E io non ho perso chili perché cammino da fermo. Sì, sì. È una camminata... Capito? Sì, boh. Avevo già detto. Sì, sì. Vabbè, ho sbagliato. Drive around all day long. Listen. listen to radio songs. I'm taking heart to become what you want for your life. I stop and talk to you. A little help from the moon. Only few words I will say. God help me, I have to pray. Your eyes are deep in my heart. L'amore in rima. Innamorare fa rima con amare. Amare con scopare. Scopare con desiderare. Desiderare con inventare. Inventare con rinnovare. Rinnovare con rinnamorare. E la catena può ricominciare. Michela 60. Magazzino di un supermercato dalle 7 di mattina alle 9 di sera. Sti cazzetti. Ma quando arrivano le 6 chiudo il magazzino per ascoltare il cammino. Bravi, bravi, bravi. Saluto tutte le mie colleghe dell'Eurospin di Arce in provincia di che è Frosinone. E mica sono quello lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Puoi mandare questo messaggio a Giulia che oggi 20 settembre e quindi ieri Ho capito, sì. Vabbè, domani l'ha capito. Festeggiamo un anno di matrimonio. Ti amo, luce dei miei occhi. Era chiaro così? Sì. Oh, Mi piace passeggiare ovunque. Mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. Mi piace guardare altrove. Mi piace esagerare, rischiando di capire chi sono. Cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Andrea da Arce, Dani da Ceccano. Sono Riccardo, da Prato. Saluto i miei amici Xanadu di Cerreto. Cerreto, Guidi. È giusto. Dedico Angel a mio figlio Matteo, dicendogli che sarà sempre il mio angelo e che gli voglio bene. Oh, Sono Marzio di Firenze. Volevo ascoltare Thank You For All, o Thank You For All, non so come si dice, ma mi piace. E ringraziare una persona per i magnifici momenti che mi ha fatto passare. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. A volte occorre fermarsi a riflettere, ma quando ci si ferma non bisogna smettere di camminare. Vorrei rivivere i tuoi pensieri quando mi abbracciavi, il tuo amore quando vedevi addormentarmi, la tua collera quando non mi sopportavi più, la tua gioia nel vedermi apprendere, le tue preoccupazioni nel vedermi in difficoltà, la protezione che mi davi, la libertà che mi concedevi. Vorrei rivivere attraverso i tuoi occhi e non lasciar scorrere semplicemente queste lacrime sul mio viso, e restare in silenzio a pensare che tutto ciò che sono oggi è anche grazie a te e alla splendida donna che è mia madre. Grazie papà per tutti i tuoi sbagli e per tutto ciò che di te hai lasciato in me. Vorrei abbracciarti ancora, guarderò il cielo e vivrò alla ricerca dell'infinito. Tuo figlio, Dove Med. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. I'll fly with you. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Francesca da Isernia, Charlie e tutto il Discotic di Genova, Raffi dalla provincia di Caserta, Tony Ruspa, Jacopo di Loano, Loredana da Vigevano. Gigi D'Agostino, attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Rimango sulla strada che non so dove, però lei c'è. Mi porta su, non torno più. A volte gira intorno a me. Lo so perché lei chiama me, perché anche lei non sa dove. Rimango sulla strada che non so dove, però lei c'è. Mi porta su. passo, non torno più. Rimango sulla strada che non so dove, però lei c'è. Mi porta su, non torno più. Mi porta su, non torno più. Gigi D'Agostino vi saluta tanto tanto tanto tanto.